Siccità eccezionale e alte temperature. Stiamo assistendo agli effetti del riscaldamento globale? Beh, sicuramente il riscaldamento globale ha un ruolo in quello che stiamo, diciamo, nella situazione che ci si sta mostrando davanti. Tant'è vero che queste situazioni di caldo torrido, caldo estremo in estate si stanno ripetendo sempre più di frequente, e anche le siccità prolungate come questa, diciamo, stanno diventando di frequenti, soprattutto dall'inizio del 2000, degli anni 2000. E cosa comporterà o cosa rischia di comportare la scarsità idrica per l'economia e per i territori? La scarsità idrica ha influenza su tutto, perché basta pensare che nel nord Italia, per esempio, fra il 30 e il 40% del PIL mi sembra sia legato, diciamo, alla disponibilità di acqua, diciamo, in quella zona. Quindi il fatto che il Po adesso sia a livelli prossimi ai minimi storici raggiunti nel 2006, beh, questo fa pensare che stiamo vivendo una crisi veramente grave, e tanto più che siamo all'inizio dell'estate, non alla fine dell'estate come è successo in altre, appunto, nel 2006. Nel 2006 il minimo storico del Po fu raggiunto a fine luglio, adesso siamo a, diciamo, quasi a metà giugno, quasi fine giugno, e quindi insomma abbiamo davanti due mesi di estrema difficoltà, perché è molto difficile che la situazione possa migliorare, diciamo, in estate, visto che le piogge estive comunque hanno un carattere intermittente, sparso, le alte temperature favoriscono con un'evaporazione che, appunto, è molto forte, quindi non c'è la possibilità dell'acqua di infiltrarsi e di andare a riempire le falde e le sorgenti. È diventato virale in questi giorni un video satirico francese del 2014 in cui si mostrava una finta previsione meteo del 2050. È diventato virale in questi giorni perché quelle temperature che nel 2014 si immaginava sarebbero state raggiunte nel 2050 sono grosso modo quelle che sono state registrate nella realtà questa settimana, appunto, oltre Alpe. Ecco, stiamo assistendo a un'accelerazione della crisi climatica? Probabilmente sì, è un po' difficile dirlo adesso, però stiamo vedendo sicuramente d'estate temperature che i modelli fanno fatica a prevedere. Anche in questi giorni, nei prossimi giorni, per esempio, si prevedono temperature che supereranno probabilmente di diversi gradi, 40 gradi al centro d'Italia, sulla Sardegna, e forse anche intorno ai 40 al nord Italia. Quindi scenari che fino a qualche anno fa, appunto, erano impensabili. Cioè, i 40 gradi c'erano già stati, erano già stati toccati, ma per punte di magari di un giorno, due, in alcune località specifiche. Qui stiamo parlando invece di un superamento, diciamo, esteso su vaste aree per più giorni di seguito. Insomma, è una cosa ben diversa che dura qualche ora. Quindi sì, stiamo assistendo a praticamente a condizioni, direi, inedite, e questo è molto preoccupante. Cosa dovrebbe fare per porre rimedio a tutto questo la politica nel breve e nel medio termine? Allora, nel breve termine, ovviamente, rendersi conto, appunto, come stavo dicendo, che la situazione non dobbiamo sperare in un miglioramento, la politica dovrebbe attivarsi immediatamente, cioè nel giro di, non dico giorni, ma anche meno, insomma, attivarsi subito per mettere in atto un piano di emergenza, cominciare probabilmente con dei razionamenti, perché non credo che, insomma, vista la situazione, si possa andare avanti più di tanto con i consumi ordinari. Ecco, un piano, insomma, un po', diciamo, d'emergenza, un po' come poi è stato fatto anche per il Covid. Sul lungo termine invece bisogna agire molto, e anche qui velocemente, sulla riduzione delle emissioni, perché sì, come vediamo, l'adattamento comincia a diventare difficile. Cioè, quando ci sono queste situazioni non possiamo altro che ridurre i consumi, perché non sono sostenibili in questo tipo di situazioni. Bisogna mitigare, quindi ridurre le emissioni, per evitare che queste situazioni si ripetano sempre più frequentemente e con intensità sempre maggiore. Quindi, se già abbiamo difficoltà adesso, possiamo immaginare come sarà fra 20 o 30 anni se non riduciamo le emissioni.